perché quella c'è al sistema come quella che c'avevo io, per dire, come il 7004, no? Nel display devi andare sino a trovare il parametro della potenza, perché ti dà tutti quelli LC, SWR, bimbumba, antenna 1, antenna 2, cicche baracche, però poi c'è anche il passaggio dove c'è tutta la parte dei filtri, forse devi uscire dall'analizzatore, e c'è anche il parametro delle tre potenze che tu puoi usare. Già lo so, però c'è anche un bel di funzioni nel menu c'è un bel di funzioni. È un macello. Non è un macello. Basta che controlli bene, già riesci a metterla in funzione. Adesso non mi ricordo se il parametro della potenza ti appare o in FM o in SSB. Lo sai, non me lo ricordo, perché l'ho vista il funzionamento di quella radio, che se l'ha comprata già da un po', appena è uscita, un carissimo amico, non di qua di Sasse, e me l'ha fatta vedere, è molto molto bella, poi tutta a colori, sai, non facciamo paragoni con radio di 20 anni fa, cazzo. No, anche il display di questa qua è molto carino, ma lo preferisco molto di più, perché c'ha più i colori, c'ha, da. No, poi anche un bel grafico e tutto quanto il resto. Adesso prendo il libro che ce l'ho qua da sopra e me lo controllo e guardo come si sollevano, almeno portarlo a 10 watt senza salire molto. Ma è facilissimo, ti sto dicendo, tu guardati nel manual service, proprio nel manuale di servizio dove ci sono tutti i passaggi, lascia perdere lo schema, tanto non ti serve lo schema, però guarda nell'indice potenza, ci sarà scritto, no? Potenza, che pagina è, vai direttamente lì e guardi come si solleva e si abbassa la potenza, e così te la metti, la lasci a 10 watt e non c'è problema, tanto quella in SSB va diretta a 100 watt. Brecco. Avanti col brecco. Raffa, buonasera, Massimiliano, bull da questa. Ciao Massimiliano, qua Danilo e dall'altra Claudio. Ah, siete uno seduti vicino all'altro, ok, va. Avanti allora, ciao Danilo, vai Claudio. E lui è seduto a sud, io sono seduto a nord, e tu sei in mezzo. Ah, me ne scendi. La bagaglia a due, anche là. No, lui, io sono a sud e lui a nord, già aveva ragione. Vabbè, è quello che è mezzo, no? Vabbè, va. Era una battuta un po' così, non l'ha fatta. No, era una giustruta, No, scusa, non volevo infierire, però, cazzo. Seguito è a sud, io gioco a nord, il problema è che è mezzo Massimiliano, invece no, anche tu sei a sud. Vabbè, va, la battuta l'ho nata, non l'hai vista, abbiamo compreso, va a fare una platte. Quella l'ho capita, ma non volevo infierire, ti ho detto. Di solito si dice, tu sei a sud, io sono a nord e l'altro in mezzo, no, quello è il coso, però non è già mai capito, capo e bugnetto. Bravo, va bene, non so che argomento ho fatto, ma continuate pure, va. Mi sto leggendo le manuali di istruzioni, allora si può assumere la funzione di questa cosa, adesso devo capire qual è la faccia, aspetta un attimino. Classa, va bene, e quindi classa, che ci dice? Non lo so, previsione, ve lo metto. Ma ti posso dire la stessa cosa io, sto entrando un po' sul tardi, se c'è gente che si può fare due chiacchiere, si gioca a bimbugnetta, no? Stavo facendomi due chiacchiere con Franco, c'era in macchina con Gianni che erano a pescare a Fiume Santo, stavano provando appunto quell'antenna, una canonata 9-10 da lì dalla cantonia dei Pedriazzi di Porto Torres, bel segnale, quell'antenna, quella frusta nera appunto. E poi niente, poi c'era Chiodo che in quel rig si sta facendo alcuni lavoretti, c'era Luca Maicomio che è sparito, c'era Emiliano, insomma un po' di gente c'era, dai. E poi mi sto facendo due chiacchiere con Danilo che c'ha il 7000 non riesci a trovare per tirare sulla potenza. Tu guardati il manuale, no? Vai nella pagina, ma c'è scritto potenza e guardi i parametri, ma è abbastanza facile, anche se è una radio molto completa e molto bella, perché è un digitale SMD veramente molto, molto bello, ma stanno apprezzando tutti quella radio perché è piccola ma sincera, e quindi adesso vai, si guarda il manuale per tirare sulla potenza. Tutto qua, Massi, e tu riposato dici, la doccia la vada direi, la pizzighitta. Tutto bene da QCT, non ti preoccupare, tutto, sai quando fare l'ora in acqua, no? E ne esce tutto così. Girata così, arrotolata come la frittella. E allora. Faccio il 7000 è tipo un certo grossino alla fine, no? Più o meno come tipo di radio, no? Cioè sono una moto. E un po' come in più una di cose, 7006 è come misura mi sembra sia, no? 7000 è un po' più grande, ma 7000 di ultima generazione. 7006 è passato come la bumata, cosa? Una radio vecchia. Vecchia è passata, no? Niente a che fare con 7000. 7000 di ultima generazione, SMD, tutto digitale. 706 è un SMD digitale, no? Ma con la metà delle cose vanno 7000. 7000 è nato non per la M, come 706. Si usano, ma 706 non ha niente a che fare con 7000, ma si senti 7000 come ricetta trasmettitore in HF, è la paura, è bellissimo, a livello di una radio molto molto molto più grande, è fatta veramente molto bene, è fatta veramente molto, e poi a colori, è un'altra guba, bellissima, c'è l'analizzatore di spettro, lui. No, vabbè, come forma, come cosa stavo parlando, va, più o meno si assomigliano anche se con la RAI superiore, va. Sì, ma nettamente superiore, ma ovviamente, è come parlare di facciamo un paragone proprio scarso tra un 140, che è sempre un'ottima radio, ma io continuerò sempre a chiamarlo baracchino a sintonia continua, perché è eccezionale soprattutto per la 27, ma come ricetrasmettitore in HF te lo posso paragonare un 140 a un IC, ma il più misero qual è? Non mi viene, comunque non so pianeta, dai. Va bene, va lì, trovato la mia potenza. Qua c'ho RF Game, Power, Mic Game e basta. Qual è che devo fare qua? RF Power! Power la potenza, no? Qua RF Power al 100%. E allora ci sta dando la massima potenza. E cosa ne sai più io? Luca mi aveva detto che me l'aveva messa a 5 watt. Ma Luca che? Flipper. Ma se lo siamo andati in porta di volte, quante volte a dire ha messo a 5 watt? Come fa a dire ha messo a 5 watt? Se ti sta dando il massimo, 100% è il massimo, il 50% è il medio, e il 25% è il low, per giù di tutto, c'ha tre potenze con la radio. E invece il Mickey Game lo tengo a metà, al 50%. Beh, se puoi andare in banda laterale sicuramente è troppo forte, al 100%, quindi io ti consiglio di tenerlo così, perché poi quando li abbini, per dire l'MC60, quella radio, che l'MC60 lo tiene in posizione amplificata, conviene sicuramente, ti toccherà abbassarlo anche da lì, secondo me. Poi, una volta che c'è il 60, magari facciamo le regolazioni, però questi passaggi che adesso hai trovato, segnateli, capito? In modo che se devi fare un trasferimento di un dato, sai dove andare a metterci le mani. Infatti me lo sono memorizzato, già l'ho provato un altro paio di volte per com'era. Sì, già me lo sono memorizzato com'è. Ma che io l'avrò aumentato un pelino? Massimiliano, che io poi, ma aumentalo, Dani, mettilo al 60%, anziché al 50, mettilo al 60, poi magari se, intanto ormai sai dove devi andare a toccare, quando metti l'MC60 ad abbassare, vai e lo metti per dire al 40, al 30%, adesso mettilo al 60. Io sto facendo una prova, non qua, perché c'è cambia. Ah, cambia sì, è che quella radio Massimiliano è nata per lavorare diversamente, non c'ha il compressore in AM, capito? Ce l'ha in FM e in SSB, capito? Ma adesso lui microfono, sto usando il microfono normale. Allora? È già bella così comunque. Ma certo che è bella, poi è chiara, bella pulita, ordinata. Prova Dani a vedere, a metterla al 60%. Allora, adesso lo sto provando al 50, e beh non sale. Com'è che si solleva? Fammi capire. No, non devi farlo parlando, devi entrare nel parametro e andare col down e up, oppure c'è qualche tastino da muovere, però devi stare dentro il parametro del mitigain, eh. Infatti sono sempre qua fermo, no, non mi sto spostando. C'è il def, quello lì? Ma non devi farlo mentre stai parlando, devi farlo senza parlare. Entri nel parametro dove c'è scritto Mickey Gain e vai avanti con... e lo porti al 60. Forse troverà anche girando l'UFO, non lo so, non me la ricordo, prova a vedere. Sì, muovendo il coso me lo dà, muovendo la manopola dei canali. Aspetta al 50, aspetta che adesso lo porta al 60. Sì, VFO quello si chiama, la manopola dei canali, i canali ce li ho io, la massa delle varie, quello è il VFO. Muovendo il VFO dovrebbe andare avanti, prova, mettilo al 60. Adesso ce l'ho al 60%. Mettilo al 70. Ce lo può fare anche modulando comunque. Non so se glielo fa, prova a vedere se te lo fa modulando, ma non credo. Adesso ce l'ho al 70%, sì, anche modulando me lo dà. Adesso ce l'ho al 80%. Metto al 100%. Adesso lo porto al 100%, al 100% adesso. Bella la modulazione, bella, corposa, bella. Poi chiaramente, Dani, ricordati, perché quando gli attacchi il microfono al tavolo devi abbassarlo sicuramente almeno al 30%, 40%. Va bene così, Massimiliano, meglio di prima. Molto migliore, così al 100% per farti due chiacchiere in aereo va bene. Poi quando passerai nelle altre bande laterali te lo abbassi, te lo metti dove ti è più, cioè dove è meglio la modulazione, 30%, 40%, vedi un po' tu quando fai in banda va. Però per fare in aereo così al 100% è bellissimo la radio. Ok, allora adesso lo tengo così. Così esco un pochino più forte, magari mi sento un pochino più lontano, forse, magari. No, adesso lo tengo così, poi quando devo fare qualche cosa in banda laterale la passo. Ascolta, quanto sto parlando vicino al microfono? Adesso sono all'incirca 20 centimetri. Avvicinato una testa alla bocca. Così? Così sono più o meno a 5 dita. Così devi parlare, così va bene, no? Studiamo, diciamo che li va vedendo attaccato, stai usando sempre un microfono male, tra l'altro non hai manco il compressore, Dani. Lo devi tenere a un palmo dalla bocca, senza attaccartelo alla bocca, però parlaci vicino, che è molto più bella, prova. Sì, così invece com'è? Com'è come voce? Va bene, ma non ti allontanare molto, sempre un microfono normale, No, ce l'ho vicino, quattro dita dalla bocca ce l'ho. Va bene così, va bene, ma poco fare troppo distante, no Massi? Ehi, ma c'è anche il microfono della radio bassa. Faccelo così, Dani, per fare due chiacchiere qua, va bene. E infatti, adesso lo lascio così, poi quando entra in banda laterale, come avete detto voi, che conviene abbassare, lo tengo più basso. E lo lascio così. Tanto mi a marzo mi ha detto, maestro, i primi di marzo ma arriva lo spinotto e me lo faccio fare subito lo spinotto, la prolunghezza. Perdonami, ma è clippata quella? Sì, con l'RG45. Ma perché lo devi far fare, scusa? Ma perché lo devi far fare, Dani? Ma ordinatelo già pronto, come ho fatto io. Come avevo fatto io con 706. Le dici, clippato, ICOM a 8 Kenwood. E te lo fai già mandare pronto. 14 euro costa, non è che costa molto mica, 14 euro. Te l'avevo fatto vedere anche la volta scorsa quando ti ho portato lo specchietto. Non lo so. Fatelo fare già da loro, io me lo sono fatto fare, a me me l'ha fatto la CSO. Fatelo fare già da loro, capito? Clippato ICOM uscita a 8 femmina Kenwood per collegare l'MC60, te lo manda già pronto col cavo di originale, schermato, bello, chiuso bene. Cazzo, da qui lo fai fare, esce una gargata. Ah, dai retta a me, Dani. Guarda che te lo fanno in ogni maniera. In ogni maniera te lo fanno. Tu lo ordini e ti dicono come lo vuoi, così, ecco, e te lo fanno così e te lo mandano già pronto. Cosa c'hai a farlo qua, da gara? È un amico elettricista è questo. Allora me lo ordino adesso, dai. E faccio l'ordine e me lo faccio arrivare direttamente qua. E faccio prima, dai. Così non c'ho a stressare a nessuno anche. Perché la volta scorsa l'ho trovato in macchina e ho detto, ma la crepatrice ce l'hai? Ma ha detto, sì, un lavoro mi devo fare. E lo devi fare, un attacco del microfono. E i colori dei cavi, lo sai, l'ha detto, ehi, c'ho tutto quanto lo schema. E ok, dai, già, già va bene, ah, già ci sentiamo. Fammi sapere, ehi, ok. Vabbè, ma no, non sono d'accordo, quelle sono cose serie. Se sbagli la connessione lì, ci rimetti la radio, mi danni. Attenzione, ci sono gli otto prossimi. Occhio alla penna, da R a un macco. Ci sono già pronti. I come Kevod, Iaesio, I, ci sono tutti. Tu se leggi, ci sono tutti e ti ordini. Clippato ICOM uscita 8 Kevod per MC60 o per SM20, come vuoi. Però Kevod, leggi ICOM, attacco Kevod, ingresso alla radio ICOM, uscita Kevod. Ci sono tutte, Iaesio, ICOM, Kevod, Inverno, ci sono tutte, te lo mandano già pronto e non hai problemi. E ti si sbaglia la connessione, sono cacchi tuoi da lì, o se sbagliano la connessione, poi piangi, ordinalo già pronto. Vai Massimiliano. Vabbè, guarda, è anche perché è più, cioè perfetto, loro hanno tutta la strumentazione giusta per farlo, va, ti fanno una cosa più carina. Sì, infatti allora me lo ordino, tanto non mi costa niente, c'ho 14 euro, no, non fa di nuovo a nessuno. Non sono quei 14 euro ragazzi che mi fanno piangere. Allora, anche perché poi è una cosa, perché secondo come lo fai poi ti innesca, capito, è brutto così. Sì, infatti adesso faccio così, me lo ordino, almeno non c'ho lo stesso, dai. Perché già come Claudio mi ha detto che come viaggio in autovolt che rischia di bruciare la radio, non ne vale la pena. Invece lo compro originale ed è fatto. Ma stai scherzando, tu già c'hai un carissimo amico, glielo puoi anche dire e te lo confermo. Bisogna stare attenti quando si fanno questi adattatori, Non è da scherzare. Se sbagli la connessione, cazzo bruci la radio. Quando buono lo spinotto, boh, caput, capito? Quindi dai retta a me. Ma mancare se quel c'ha 20 zico, non me ne ha fatti nulla, però sono sicuro che arriva il suo connettore già fatto, bello e fatto, capito? Tranquillo Dani, dai retta un macco, che io sai quanto ne ho comprato di adattatori, io con la 706 lo stesso, non lo trovavo, avevo chiamato la CSOM perché 706 l'avevo comprato lì. E mi ha detto te lo faccio io, mi ha detto te lo faccio e te lo mando, non l'aveva mandato, però i come clippato ICOM, uscita ICOM per l'SM20 e l'avevo regalato a Vanni, prova a chiedere a Vanni tu, a quello di Alghero, l'avevo regalato a lui perché ci aveva una radio, quando si è comprato il 7000, anche lui c'ha il 7000, quando si è comprato il 7000 per collegare l'SM20, gli avevo regalato, è venuto qua a trovarmi un giorno, gli avevo regalato perché non avevo più 706, l'ho dato a lui, te lo puoi anche chiedere, però l'avevo comprato già fatto, cosa ti metti a fare? Quello è un cavo schermato, un cavo particolare, capito, c'ha tutti i suoi colori originali, quello di Nafuti a farlo va, vai, compratelo già fatto, vai Massimiliano. Vabbè, anche secondo me le conviene, fa ingresso in radio ICOM, uscita Kevud, se glielo parli così c'è una cosa che sicura, perché loro lo pescano, hanno tutti la connotazione e non sbaglio. Ciao gara, andava bene l'era. Bene, mi ascolti a me, vai. Sì, infatti faccio così, e l'ordino. Sì, ti ascolto bene, 9:20, radio 5, bella chiara. Vabbè, ok. Cazzo, mamma mia, non è uguale già che sono radio, bello, sono uguale. Ciao Gabriele, ma fede, sono venuto a ribusato qua. Lo so, Massimiliano, ti video, lo so e ti capisco, non fai un lavoro che ti gratti le balle, a stare 8 ore sopra quella macchina, lo so, e stando seduto poi, ero vada, ero dire a dire, pigliando i colpi, a richina, a ribrazzi, mantenendo chi su giù, prendendo chi su joystick, lascia perdere, lo so, ma non ti preoccupare, Massimiliano, tanto mi ho un altro po' di passaggi, sono trattenuto che c'era Danilo, mi ha fatto piacere che non è che entra sempre, e quindi mi sono trattenuto a fare 2 chiacchiere con lui, c'era anche Claudio di Muros, capito? E niente, quindi non ti preoccupare, se devi chiudere, piuttosto dimmi se hai messo quell'alimentazione come ti ho detto. Break. Sì, un secondo già. No, la verità no, Claudio, sabato me lo faccio. Non aiutare, già che non si è buono, capito, però non l'ha fatto. Avanti già. Regala, buonasera a tutti. Finalmente un po' sdraiato, là. Io invece sto tutto il giorno in piedi, seduto, prendomi il sole. Arrivo subito, ciao doppio, arrivo subito che mi sta chiamando a un secondo. Vai Dani. No, adesso io chiudo qua che... Sicuro che la gente abusato. Dai, chiudo adesso, dai, già ci sentiamo un altro momento. Dai, alla prossima, dai. Ciao a tutti. Ciao Dani, ci sentiamo, dai, buona serata e buona continuazione della giornata. Ciao ciao, avanti già. Da Gianni. Ci siamo parlati qua sull'altro. No, ero zitto io. Zitto io. Gara. Comunque, ciao, ci sentiamo, dai. Ma ci vediamo, oggi è una bella giornata a lavorare, dai. Sì, oggi, ieri è la più bella, secondo me, come giornata. Secondo me, ieri c'era meno vento e c'era più caldo. Ma io sono andato al mare, stavo bene. Era Fiume Santo, da 1:30 sono andato sino verso le 7:15, così. E no, nulla, manco ho toccato. No, non toccava nulla, abbiamo provato, ma nada de nada. Sì, qualche cosa ha mangiato, ma era roba piccolina, non era roba certo che si poteva prendere. E niente, vabbè, siamo passati una bella giornata comunque all'aria aperta, c'era caldo, c'era una leggerissima brezza, ma stava bene. E magari doveva andare lì a cosa, al presidio, lì a meno una cosina, tocca là, diciamo così, è un po' più vicino. Io già, la verità, sono andato una decina di volte lì a Fiume Santo, a fare la pesca, non avevo mai bigliaduta, ma ti giuro, ma non è che roba piccola, vero, non ho mai preso niente. Io non c'ero mai andato a Fiume Santo, sono andato da altre parti, a Stintino, eccetera, ma a Fiume Santo va. E niente, mi diceva Franco che l'altra volta sono andato e hanno preso delle belle orate anche. E come ci hanno fatto, americano? Americani e cosa? E canolicchi. Lì l'americano, lì c'è anche sotto la sabbia, lo sai? Non ci sono gli americani, quelli piccolini, sotto la sabbia, che li puoi fare tu direttamente. Lì magari per l'orata vuoi provare con i bibi, lì. A me, avete tutti chiuso? No, siamo qua. No, tutti aperto, hanno. Via. Dai, io mi preparo per portare il cane, comunque sono qua, non c'è problema. Se Danilo ha chiuso lo saluto. Avanti, Lugarie, riprendi tu con Massi, dai, già sono qua, mi sto preparando. Via, ciao Massimiliano, entra. Adesso vi alzo per vedere un po' cosa cenare. Il relax. Come mai già a casa? Cosa già? Come mai a casa? Cosa vuol dire come mai a casa? Beh, di solito sei sempre dalla tua ragazza. E vabbè, questa settimana no. Sono a casa qua. Capito. Ciao Lu. E me la si vedia. Capito già? Qua. Oia, bisogna cambiare ogni tanto, Bisogna cambiare che cosa, ragazzo? Cosa, Massimiliano? Bisogna cambiare il ragazzo ogni tanto. No, casa. Casa, non c'è casa. Caffarroggio, va bene. Vieni, mi sto ancora facciamo un paio di passaggi, vuol dire che la verità non ha giocato questa radio, ha portato ancora bugiardo, l'ha fatta tutta la vita. Quindi, se in caso ci sentiamo dopo, va bene, ma momentaneamente vi saluto, perché io me ne scendo un po' giù con la famiglia, no? Ci sentiamo, ciao Gianni, Luca, Claudio e tutti i vari ascoltatori. Ok, vai già. Ciao, ciao Massimilia, ci sentiamo, dai. Buona continuazione di serata, avanti chi è rimasto. Bene, Massimilia, dai, dopo, forse, io mi addormenterò sicuramente. Boh, non lo so già che è rimasto. Io questo. Ciao Massimilia, dai, ci aggiorniamo più tardi su WhatsApp. Ehi, già che io vado a portare il cane, che non l'ho portato neanche dopo pranzo, ok? Vi lascio a voi due, già salgo subito intanto, a dopo. E io vado dopo, mi sto rilassando 5 minuti, dopo ci vado. Tanto già è coricato qua, tranquillo. Sì, anche io lo porto adesso, fa la pipì, poi già salgo subito. Vai, Rogari. Vado a fare anche io la pipì, va. So che incazzato niente il gioco. Scendendo adesso in Corso Margherita di Savoglio ho spaccato la gomma. Nella bicicletta? Allora, in culo se devono mettere quei fusi. Che rifare un raio, cazzo, non lo voglio più vedere, il sindaco è il cavolo. Ma non lo voglio più vedere. Cazzo, votatelo, votatelo, ma cosa voti? Miserabili sono tutte. Chiamavi i vigili e ti pagavano il danno. Per carità, ma vado a Manzano, ando da Fiocca. No, non è Fiocca, no. Devi chiamare i vigili e ti pagavano il danno. Li facevi cose e ti pagavano il danno al comune. Ehi, sa 30-40 euro di goccia, si la facciamo in Noramara. Eddi, è tutto canto il comune di Sassari. Anche il cerchione ti è rubito. No, no, e per fortuna la beccia non abbia fatto niente. Con lui lo vado da Fiocca, domani lo mettono da posto. Un raggio è partito. Cabba, poi vado e me lo mette a posto, me lo mette e mi... E c'è il motore elettrico lì, no? È buccia di gioca, meno male, l'ho smontato io adesso. Cosa? Dov'è il motore? Dove rimane? Dietro, posteriormente. Ah, praticamente a contatto con la ruota di dietro. Sì, adesso, domani mattina lo porto su e lo riparo. Ogni volta ce n'è una, sempre rompermi le palle, ogni volta ce n'è una. C'è una roba da macchi. Adesso domani porto il cerchione da Fiocca, me lo mette a posto. Ho staccato uno spinotto, ogni volta giocava la ruota e via, poi e via. Mi succede che se uno spinotto ha buon senso, ma se immagini bruci tutto. Meno male che io già lo so come te. Manco un attimo. E cosa ti è successo, Bobolì? Ho spaccato la ruota. E lo sei preso qualche fosso? Le corna del sindaco ho preso. E là, non sapevi ancora. Ehi, è tutto pieno sasse di corna del sindaco. Mi gorra che puzza in capo. Cazzo, mamma mia, ma cosa che incazzato, non faccio manco un credito, no, che mi sono un burro dimenticato. Lui che stasera faccio un casino, faccio. Porca miseria, cazzo, mi lumi al tratturaccio. L'igorra che puzza in capo, non ne voglio vintindì, non ne voglio vintindì, guarda. E vai, gira a largo, vai, cosa vuoto? Dovevi chiamare i vigili urbani, ti pagavano tutto. Cosa posso, mi pongo a fare lì causa. Ehi, allora? Aspetta, sto chiamando un attimino al babbo. Cazzo, me lo genero, ha preso un foto, un fosso alla croce con la BMW, ha fatto 1500 euro di danno, si è piegato il braccetto. A vedere, non si è mosso lei, ha chiamato i vigili urbani, hanno fatto le foto, l'hanno pagato. intanto ne scarti uno, ne prendi due di furto. Ah, oh, beh già, su quello non c'è dubbio. Ma cioè mi sto mettendo le peppe, che ci portiamo a Pippo. Ecco qua, ho un mal riposo. Cazzo, ho già sul telefono carico, Cristo. Mamma mia! Dai, ma da tu, dai, ma di reluta! Cazzo, ma sai chi? Piccate lì barro un gabbo a chi sono deficiente! Ma perché l'hai preso? Perché non l'hai visto oppure non l'hai potuto evitare, com'è? Non ho potuto evitare perché c'era una macchina in mezzo alle palle, c'era! E ci sono. E dopo l'ho preso per forza! Quando è così ancora più nervoso ti viene, capito? Ci muove in tutto sempre in mezzo ai bidi. E beh già, non ci sei riuscito a farti dare con l'antenna. Ah? Ma ti ho capito. Non ci sei riuscito a farti dare l'antenna da Franco. No, me li raggi, no, me l'ha già detto, stavo scherzando. Non gliene prendo, la sta usando lui. C'ha ne altri di stili, ne altri. Però ci vuole l'attacco a farfalla, io non ce l'ho. Attacco a farfalla, attacco a farfalla. Io non ne ho di quelli già, non ne ho. Se non te l'avrei dato te l'avresti già, lo so, e li ho dati tutti io quegli stili. Ne avevo mai io di quegli stili a farfalla, perché usavo quel tipo di antenne io quando c'avevo la battimobile, capito? Ah, sei scendi o non sei scendi? Gianni. Gianni. Scusate, stavo parlando con Babbo. No, è parito Gianni, che c'è una portata del parito, Gianni. Cappa. Uffa, mamma mia, chiama Sara, giù dalla. Mamma mia, cazzo. Ma giù, ce li ho girate stasera. Tu, rilassati, rilassati per favore. Non te lo vuoi pigliare nessuno? Rilassati. Tranquillo, già si acconza la bicicletta. Ehi, la Madonna. E poi come che appagazzo con sempre io? Perché hai fatto male, te l'ha detto Gianni. A mio genere non ho preso un fosso alla terra e ci ha fatto un danno con la macchina. Si è fermato lì, si è venuto in vigile, ha fatto le fotografie, ha fatto la denuncia e l'hanno rimborsato i soldi. Ma glielo ho preso. E cappa. Adesso... veramente incredibile, saranno 20-30 euro di danno, ma perché lo devo fare? No, se facendo un cerchio di questa bicicletta non sono 20-30 euro di danno. No, non è rotto, lo stavo guardando, se è solo un raggio si può raddrizzare, bisogna mettergli il raggio giusto e lo addrizzi. Devi portarla dalla fioca lì e te la fai fare. Li porto il coso, cosa mi ho piazzo io tu il, come si dice, il, come dire, ma, il cerchio poi me lo piazzo io, l'ho smontato io. Se porti il cerchio, ti fa mettere il raggio nuovo, ti fai fare l'equilibratura, la fai bene, bene equilibrare, e poi te la ripiazzi. Cappa, l'ho presa, al minimo ho saltato, boh. 36 mi barghiero quando si è fermato a conta chilometri. Vabbè, cose che servono, che cioè che succedono. Gianni, dai, io tu devo andare a portare il cane, allora ci sentiamo dopo. Guarda se rientra Gianni, boh, è sparito. Mi ha dato impari. Sempre giudicando sta. Mi sembra che sia sparito, mi si è spento l'apparecchio, non capivo il perché. Non è una cosa del fusibile, mi sarà più combinato un raio. Ci spingo, hai giunto un buco, su stesso. Voglio mancata la corrente. No, il fusibile. Il fusibile, quindi che era troppo minore, non andate a vedere. Difettoso, eh. È difettoso quel fusibile, boh. Ma fusibile di cosa? Dell'alimentatore? No, no, del baracchino. È difettoso, si è spento l'apparecchio. No, già, vuol dire che c'è qualcosa che non va, capito? Vuol dire che non è adatto per quell'apparecchio. Non è partito il fusibile, il portafusibile che si è mosso sicuramente. E si è spento l'apparecchio, come l'ho toccato, l'ho riacceso e praticamente è ripartito. Ho capito già, però cazzo, non deve funzionare così, porca miseria. Ma non è che dovevi educare per partire. Cazzo, vai in corto, ti mandi il casino. Toglio, mettiti al nuovo, controlla, non si deve muovere. Non lo so, io penso che già quello, perché io ho toccato tutto il PCR acceso. Ho capito, però non deve fare così già. Queste cose non sono stabili, cazzo, boh, stabili. Non è che lo devi educarsi, devi turare o dire se tu, ma no, stabili devono essere. Soprattutto il fusibile che entra l'alimentazione. Controllatelo bene. No, no, è stabile. È stabile le cose, solo che si è spento senza toccare nulla. Non ho capito il perché. Che strano, non lo so. Comunque chiedilo sotto controllo, perché quello non si deve né muovere e né deve fare difetto. Deve entrare bene, chiudere bene, capito? Ora sì che giochi il fusibile, che giochi la sera, quindi come tiri si muove, ti tu la radio. Allora vai. Dai, controllati queste cose, non ti preoccupare. Tanto ci sentiamo dopo, dai, anche per te Gianni, ti vorrà portare il cane, ciao. Avanti Antu. Ciao cra, ci sentiamo. E pure da contra, yuku! Mi sono messo oggi. Oggi mi sono messo. E ho aggiustato la ringo. Ho capito che cosa era. Questa dovendo la piazzare, chissà mi dura. Anni e anni mi dura. Questa ringo qua. Capito già? Allora praticamente gli ho fatto, si è staccato dove c'è quel cavo di isolatore, capito? Io l'ho riparata. Agaputti. E non mi hai capito, ho detto qual è quello che era, quella che era montata o quella che avevi di riserva? Quella che avevo di riserva. E beh, cosa aveva? Dove c'è l'isolatore si è staccato. Come non si stacca manco via balla. Perché gli ho messo un bullone in acciaio inossidabile, gli ho messo innanzitutto, capito? Poi gli ho fatto un'altra modifica, c'è quel pezzo dove c'è il rivetto, l'ho rimesso bene a posto, capito già? E lì a posto anche quello. Come dove c'è andata una bomba? Io guarda, io sono convinto se questa ce la piazzi. Le faccio tutti i cosi, chi c'è? C'è una bomba. E beh già. Qua sono, qua, sono qua. Camilla! Mi hai capito cosa ti ho detto? Ho detto che ho scoperto tutti i difetti che c'aveva questa antenna. Adesso l'ho messa a posto io, questa è pronta a piazzare. Sì, ti ho capito Antu, ho capito che lei l'isolatore le hai aggiustate eccetera. Avanti Lucrezia. Che sto mangiando la mela già. Come fa? Mi sto mangiando la mela, buona eh. Sei andata a fruttare sei magnini oggi. Appena non mangi, la mangi tu, appena un pezzo di mela e l'arancio. Adesso la mela. Ma l'ale non te la sei mangiata? Io già sto con la lì, non li mangio già. Ma prima già ti sei rifatto, va. E poi io non le mangiavo le banane. Banane sarde? Fino a me. Già, non ti le metto, no, io già le mangiavo, eh. Vabbè, che non le ho, insomma le mi mangiata, va. Kappa kappa. Ecco qua, yuhu! Questa di Antoni la può partire alla grande. Ma lo buoni che se la piazza gli occhi esci, eh? Oh già, se la piazza gli occhi dentro esci l'antenna, che cazzo ci vuoi ce la fare? Oh Giulia, certo che esce, se l'hai aggiustata. Tanto prima sei uscito oggi. Eia, prima sì. Mi ha mandato la giubbotta questa roba. Sono uscito prima sì. Oh, cosa. Sono appoggiato da una parte, ma non mi ha messo bene la giubbotta. Cabaret dove va? Ah, va davanti a Luzzi. A Luzzi ve la via, ma va. E l'esame quando lo dai, Antu? Un altro mese. E tu da dove vieni in questa scuola guida? Non ho capito. Da quando ci sia la scuola guida? E un po' ci sono. Ma l'hai già dato l'esame? Negativo. Lo dovevo dare il 3, ma gli ho detto di no. Devi dare l'altro esame, il prossimo mese. E tu c'è tempo a dare un altro, se malauguratamente dovesse andare male. Un mese. Eh? Ho capito. Vabbè. E tu pronto, sì. Eia. Già sono pronto. Mezzo gai. E sta facendo le prove d'esame? E secondo te? Non lo so. Prima era più facile, adesso è un po' più difficilotto. A meno che hai un piccolo aiuto, altrimenti è un casino. Poi devi studiare forte. Adesso c'è anche il primo soccorso. Tu pensa a quelli che se l'hanno presa, la prima volta li hanno presa è stato di ebbrezza, la seconda volta lo stesso, adesso non ne hanno più, devo rifare dopo l'esame. Ci vai dai vedo vedi riesci, se sei una persona col cervello a posto, se no vai dai vedo e allora se la bignano in luci, non è buccia di gioca, no? Purtroppo c'è il trabocchetto tu, da un cartello ti fanno mille domande, capito? E lì si incroci lo stesso, incroci che ti chiedono molto. Per me è più facile adesso che sono qui, prima era più difficile. Non te lo volevo dire. No, non è così già. Ti faccio un esempio, a me è un incrocio, all'esame, un divieto di transito, mi ha chiesto in questo divieto di transito, che è quello rosso, il mondo rosso e il bianco al centro, se poteva passare una bicicletta anche. Se uno può passare la bicicletta? No. Ah Gianni, secondo te può passare la bicicletta? No, se è divieto di transito non può passare nessuno, non può transitare nessuno. Vedi un po'. E poi ho fatto un sacco di domande. Stava infinocchiando forte. Poi l'ho giù buttita. Già, divieto di transito, però molte volte per alcune, per alcune categorie, no. Però il padone può passare, tu. Come? Se uno il padone può passare. No, non è così, no. C'è un cartello, ci sono vari cartelli, ci sono, abbinate. Capito? Ci sono vari cartelli abbinati, per esempio, oppure sono per alcune categorie, per esempio il piediciclo potrebbe passare, che sarebbe la bici, magari non potrebbe passare, non è detto, ci sono tante cose, ci sono. Non potrebbe passare un autoveicolo in quel tratto di strada. Bisogna stare attenti con chi si cazzo di domande. Dici che scendo che c'è Sara con la spesa. Se un divieto di transito può passarci. Poi ci sono altri cartelli abbinati e sto parlando con un divieto di transito. Che pagata. Basta! Tutto mi dinghi, cazzo. Molti cazzetti, sempre li chiedi, cazzo. Ma sai che scendo aiuto la sala? Mattino me la metto un po' di cavale alle mani, faccio di mani, cazzo, ma li metto cazzo per strada. Oi, cava di cava. Cicu. Beh, raga, io vado, va. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, mi sto mettendo la crema, io ho le mani cazzate per tratta. Cava. A dopo. Via, a dopo. Attento, Brittella. Sono entrato alle shop. Già mi avessi andato a portare il cane, così. Sinceramente non lo so, sono sceso giù per aiutare a Sara. Non lo so cosa... come si dice... C'è andato giù, non so. Chissà dove c'è se di consigliando, vabbè. Ma non va la posizione. O da una bassa, dall'altra. Lui c'è andato a bere una testa, cosa li fate? Sì, già va bene, tu. Ho tutti i denti. Ottimo per la truppa. Cappa. Dammi il cellulare, che il mio non funziona un cazzo, dammi. La porta aperta, ciò. Sì, aspetta, intanto mi sto mettendo il pigiama. Ehi, così. Mamma mia, dove mai sto? Ehi, Acla, eccomi. Ehi. Mi sono messo a posto. Adesso aspettiamo la cena. E poi via. Campo di oggi, io anch'io sono stanco. Bisogna tutto ciò che viaggiate, Fendi. Ci portato sta camera. Figurati, c'è la roba di 8 anni, 9 anni dentro l'armadio. Non sapevo neanche cosa c'era. Scappa. Piano piano, Focca. Mi affari così. Piano piano. Io sono entusiasta di vedere se questa cavolo di antenna che ho riparato va bene. Ah, si intende di Giave, maneggente? Cerca di fare, stando attento, non stando alla radio, fai chi ci sei vendi. No, non c'è problema, non c'è, tanto già lo so cosa devo piazzare, domani mattina buccio. Ecco qua. Domani mattina buccio l'ungoggio da fiocca, me la mettono a posto. Allora quel raggio si può anche dire, secondo me è esploso il pneumatico, cioè proprio dentro la camera d'aria si è disintegrata. Ma non penso che ne abbia camera d'aria quella, o c'è la camera d'aria, boh. Sì che ce l'ha. Sì, allora, ti metto la camera d'aria nuova, quindi già non so vittivo, quindi c'è danno, Anto, c'è danno. Io penso che ci voglia almeno una cinquantina di euro per mettere a posto con la bicicletta. No, gliela porto io, no, ma non penso, perché non c'è, stavo guardando poco fa, il cerchio, non ha nulla, non ha, lui ha addrizzato un pochettino e ha messo i cosi, loro ce li hanno, mi, capito, poi che c'è cose ne hanno fatto pure io, però invece elettrica non ha mai a conto. La mazza che tiene varia, sicuramente la mette il raggio e metterla, la devono, come si dice, mettere bene a punto e vedere ma cosa funziona. E no, il motore è buono, non c'ha nulla, no? Io ho capito, però se il cerchio, quando loro lo mettono nell'asse, già lo so che li addrizzano, li mettono, chi addrizza il cerchio sono i cosi, capito, i, come si chiama, i raggi, no? Lo tendono teso e con i raggi poi lo addrizza. Però bisogna vedere se si può addrizzare quel cerchio, o l'hai detto incicciato. No, non è incicciato, l'ho guardato io. E comunque solo la camera d'aria costa 16 euro, tu. Capito? 16 euro di camera d'aria, i raggi, devi rimanere sul travaglio, eccetera, qua, tranquillo, 50 euro di biglia. Vabbè, vedi dopo cosa posso, mi serve, però cavolo, cosa faccio, mi serve. Ho capito, però li avreste risparmiati, quando succede così, queste cose, ne risponde il comune, capito, l'ufficio della manutenzione, ne rispondono loro, quindi tu devi fare la foto, tutto lì del fosso, della bicicletta, come ti la ruota sei fasciata, fare le foto col telefonino, andare al comune e fare la denuncia o al comando dei vigili urbani. Cappa. Sono rotture, sono che rotture veramente, mamma mia, ui. Ma tutto a me succede, boh. Già non ha giù di nacca, in più succede gli cicosi, siamo pure a... c'è un bel acqua, però incredibile. Sì, tu sei fissato, tutto a te, succedono a tutti, lascia perdere, in strada purtroppo possono succedere tante cose a tu. Quelli fossi sono... se non lo vedi è un accidente da fare, se buono è allora detto, mio genero ha fatto 1500 euro d'anno con la BMW, ha preso un fosso e ha spaccato il cerchio, la gomma e il braccetto, quindi vattene conto. Adesso roba drammatica, prossima volta chiamo vigili urbani, chiamo il vigili urbani e dobbiamo sistemare la cosa, perché no. Non va bene, è di là giù un boccio, un bambino, vedo? Non va bene questa storia qua. Non va bene, no. Ma chi su, chi sta a spirale, secondo Decla, ma secondo me no, non ti fatti nulla, è uguale, proprio fatta così. Non senso o no? Capito la ti sto dicendo? No, Antonio, mi sono allontanato un secondo, però mi hanno chiamato, dimmi. La spirale della Ringo, se lo metti o una parte metti la lato, non li fate nulla. Non penso, non penso. A Marco devi chiedere, lui è molto esperto in quell'antenna. No, mi pare che era così, sì, già va bene. Andare. Sì. Se no aspetta. Proviamo, ma no, non gli cambia assolutamente niente, non li cambia. Ha riprovato con un tester, perfetta, Ho guardato se c'ha degli interruzioni, né niente. Adesso sì che non arringo di tutto il rispetto. Cioè, Sarola. Ho messo il bulloncino, non si muove, manca a balla. I bulloncini, io te sto dicendo, lo sai chi ce li ha i bulloncini in acciaio inossidabile? Ce li ha quello di via Marsiglia, se ti capita che ti servono ce li ha lui, con la ferramenta che c'è. Lui mi ha detto che ce li ha un bagò perché fanno anche cose di imbarcazione, li vendono per quelle cose lì. Vicino alla pizzeria marsigliese, quello lì ce li ha, queste cose qua. Tutti quei bulloni in acciaio. La Marsiglia. Ah, ho capito, quello è via Marsiglia, sì. Lui c'ha tutti quella ferramenta che c'ha tutti i bulloni in acciaio, l'ho comprato lì io. E quella vera filettata in plastica non ce l'aveva? No. Io quella l'ho vista forse la Bricco, ma con la carbone. Per fare, per isolare, per mettere bulloni passanti isolanti, cioè da 4, da 6, da 8, da 12, e boh, mi sembra sino a 12 arrivo. Per fare quel lavoro lì, va bene, hai capito? Capa, no, ma comunque guarda, come l'ho isolato, l'ho provato col tester ed è una gannonata, ti dico veramente che va bene proprio. Ho provato a vedere se c'è induzione, niente. Allora, se la metti suona, se la metti non suona, evidentemente ho fatto una buona isolazione, non poi ho provato a tuzzinare le cose fortissimo, adesso sì che è veramente ricostruito come deve essere ricostruito. Se è rinforzato in quella maniera lì già va bene a tutto. Capa, ci dovevano mettere in testa che quando si compareggiano che c'è antenne bisogna rinforzarle. Sono d'accordo, non bisogna piazzarla così come te la danno, se no è un casino. È meglio farle sempre qualche rinforzo. Allora mi ha detto che qualcuno che l'ha fatto dice che c'è un sacco di anni, non gli ha dato mai più un problema di niente, cioè c'è qualcuno che ce l'ha, mi hanno detto che l'ha rinforzata così come ho fatto io, 5-6 anni sul tetto, non ha mai avuto nulla, capito? E così a tu. Mi hanno consigliato di mettere i bulloni d'acciaio perché era la cosa migliore che potessero fare, capito? Io questa modifica che gli ho fatto sono convinto che questa, quando la provo ti viene la tentazione di piazzarsi da sopra. Questa roba, questa modifica che ho fatto. Ehi. No, io lì in via Marsiglia avevo comprato, non mi ricordo, forse delle viti. Delle viti, quelle perforanti, autoperforanti, quelle viti per il pannello, per il quadretto che mi ha fatto l'elettricista. Per non scendere al Bricco, perché quello di via Catalocchino è caro che la Bredda, ma caro baro. Tu sei via 4 novembre. Via 4 novembre, ragazzi, è un po' che caro dici. Ma quello là è onesto, si arrangia. Vendimi. Vende perché è una persona onesta, si arrangia. Non vuole suo migliore marito, se non mi ricordo male. Si arrangiano, la verità, sono seri. Sono molto seri come persone. A quanto li conosco io, è così. Io lo riconosco, però ci ho preso altra roba e sono seri, va bene. capo, perché bisogna sempre arrangiarsi. Scippo con la vita, vedi? Ora ho capito. Tornato? Stavo guardando a vedere com'era quella là. Stavo guardando com'era la... la taratura, capito? Ora giù compreso, giù capito. E bisogna far andare qua. Ma se è giusto, sta qui. E andare. No, già serio quello. Te lo dico perché avevo comprato anche una bomboletta nell'opaco. Non questa che ho preso, questa l'ho presa a Maximilian. Però buona, di marca, Marron Color, mi sembra che era. L'avevo pagata 3 euro. Va bene. Io già ci ho sempre comprato bene, la verità, non è che... Già sono seri. Non so di chi si garriaggi. Sono gente tranquilla. Io li conosco. Allora. Io. Dai, Otto. Io me ne vado nel salone, lascio tutto acceso qua, al limite ci sentiamo dopo, dai. Che magari entro qua a guardarmi uno straccio di partita, c'è l'Atalanta, si fa della fine della Lazio, che sta pigliando 4 gol da Rubaier, si via Jürgen de Grosjoes, Bayer. E stasera il Real Madrid di piglia costruita dall'Atalanta, sicuro, tranquillo che piglia costruita da Mara. Dai, ci aggiorniamo dopo, Anto, vado a mangiare un boccone, ok? Che c'ho fame. Ok, cazzo, sentiamo. Alla prima! Santiago 9, sì, qua già va bene. Giappa, giuffu, l'ho sopurata la prima. L'ho sopurata. La mappa di Ricciare era così più giappi. Sono portato tenendo a mano. Giappo. Funziona. Alla prima, zero di stazionario. Ma no che fronte è così, bu. Cazzo, ma c'è l'antenna quasi dentro casa, non è sopra, no? L'ha riparato l'altra, ciao ti. Io vado a mangiare, va già va bene il bambolino, già va bene. Poi quando la metti fuori sicuramente migliora, ciao ti, che vado a pappare. Ehi dai, anche io sono entrato giusto perché ho visto la portante. E troppo me così basso Antonio. Va bene, dai, se coincide a dopo. Ciao Fra, ciao Antonio, ciao anche l'inventore ascoltore, Ciao ti, già ci sentiamo dopo. Eia, se coincide sì, adesso vado a preparare anche io. Gappa. Che bella che sei. Ola. Uno, tre, prova. Ola, uno, tre, prova. Vado a pigliare il tiro. Gianni, la penna è uscita con successo. La stazione binario 10, c'è qualcuno, cappa!